Rock FM, sono le 7:30 spaccate. Problemi? If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Benvenuti, questa è una guerra. Questa è una guerra agli ascolti. E dovremo vincere noi, di pane, burro e rock and roll. I nostri primi caschi blu sono già nella strada, là fuori, pronti a spargere il verbo. Ogni mattina ascolta Rock FM. Sarà dura, sarà difficile. La macchina che guidiamo non ci supporta, ma noi ce la faremo lo stesso perché dalla nostra abbiamo il rock and roll. Mi piace la piega che sta prendendo l'interazione, eh? Mi piace molto. Vi sento propositivi, bravi, così va bene. Ognuno di voi deve prendersi la sua missione da compiere. Bravi ragazzi, bravi ragazze. Pane, burro e rock and roll è una squadra e voi ci siete dentro fino al collo. Abbiamo a questo proposito il nostro tassista di riferimento Tino, che saluta Silvia e Sergio del gruppo Papà che portano i figli a scuola e ci fa sapere che ieri ha trovato un nuovo adepto, un dirigente amante del blues. Bravo Tino, continua così, spargi il verbo nel tuo taxi, diglielo a tutti, vi faccio lo sconto se ascoltate Pane, Burro e Rock and Roll. E voi che mi ascoltate in cuffia, lì per strada a Milano, chissà, se state aspettando un taxi, forse potrebbe essere quello di Tino. E allora scatterebbe una grande festa. Scusate, ho dormito poco. Si chiamano Cure. Why can I be you? È una festa di rock and roll anche questa mattina. E siete tutti invitati. Ascoltatore ce lo ha fatto notare nelle settimane passate, è un periodaccio per quanto riguarda gli almanacchi, quando dobbiamo approfondire purtroppo le scomparse di grandi artisti, ma anche quest'oggi non possiamo non ricordare la voce femminile forse la più bella che io riesca a ricordare. Sì, dice bene, sono d'accordo con lei, DJ Ariel, perché effettivamente Janis Joplin, parliamo della terza J che avevano gli americani, Jim Morrison, Jimi Hendrix e Janis Joplin. Janis Joplin, quando saliva nelle note acute, era veramente paradisiaca. Forse la voce più rovinata della musica rock. E al tempo stesso angelica. Contraddizione interessante, scusa. Nasceva nel Texas e a 17 anni si trasferì in California, inseguendo gli ideali della Love and Peace, che a breve avrebbero portato all'esplosione del movimento hippie. Nel 1966 entrò a far parte della band che la lanciò, si ricorda chi? Erano i Big Brother and the Holding Company. Perfetto, nel 1968 incise Cheap Thrills, secondo album del gruppo, tra le quali la meravigliosa Summertime di Gershwin e Piece of My Heart. E nello stesso anno, c'è da ricordare, sempre parlando di Janis Joplin, che partecipò al Festival di Monterey, un festival pop rock molto importante. L'anno seguente si mise in proprio, scegliendo un nuovo gruppo d'accompagnamento, quindi lasciò i Big Brother and the Holding Company, per dar vita alla Cosmic Blues Band, con la quale pubblicò l'album I Got Them All Cosmic Blues Against Mama. Che titolo? Che titolo, che significherebbe circa ciò di nuovo, quelli vecchi cosmici blues, quei blues cosmici, cara mamma o cara mia, cara donna, insomma. Cambiò infine ancora band, scegliendo la Full Tilt Boogie Band. L'album Pearl fu pubblicato purtroppo postumo, perché per l'appunto il 4 ottobre del 1970 la meravigliosa Janis Joplin fu trovata morta nella stanza di un motel di Los Angeles, stroncata da una overdose di eroina, in seguito alla quale cadde a faccia in terra, rompendosi il volto. Beh, terribile quest'ultima cosa, terribili queste ultime ore dei grandi protagonisti del rock internazionale. A pane, burro e rock and roll, quest'oggi non potevamo non ricordare Janis Joplin. Massimo rispetto per la grande Janis Joplin. Try. Can't even hear you trying at all, man. Try just a little bit harder. Work on, push on. Try, come on, just come a on. Little bit harder. Come on. Try just a little bit harder. Work on, push on, move on. Work on, push try, on. Come on, move just on. A work bit on, harder. Push on, move on. Child, child, child, is of you ever want to the man. Just let me tell you, honey, harder. You better work your sweet ass for him. Hey, and if try, you ever wanted a good woman, just love, a little bit harder. You gotta do more than that, man. You gotta work try, on, push on. Just a hey, little bit harder. Work on, push on, move on, work on, come on, try, work on, push on, move on, harder. Come on, come on, come on, come on, try, try, try, man, try, try, try. Dal vivo, try just a little bit harder. Che roba, ragazzi. I giusti applausi, che voce. È stato doveroso ricordarla. D'altra parte, se siamo in guerra d'ascolti, noi spariamo. Scusate, noi spariamo le cartucce che sappiamo sparare. Intravedo qualche commento. Grandissima Janis Joplin, non ci sono parole per descrivere le emozioni che la sua voce sa trasmettere. Non credo di aver più trovato un artista in grado di stravolgermi come lei. Grazie per averla ricordata così. Smilia, beh, è un piacere, ragazzi, ascoltarci Janis Joplin a quest'ora della giornata. È stata veramente una delle belle scoperte di questa trasmissione Pane, Burro e Rock and Roll. Con questo non voglio dire che non conoscessi già Janis Joplin, che non mi piacesse già, ma devo dire che ho vissuto, e spesso e volentieri lo ricordo, un nuovo innamoramento per lei a quest'ora della giornata. E, a me personalmente dà una carica in più, vedo con piacere che fa lo stesso effetto anche a qualcun altro di voi là fuori. Che giornata, ragazzi, anche oggi nuove rubriche in vista, e lo leggo negli occhietti lucidi di Roberto Friccantoni. Veloce un saluto a Maurizio da Lucca, che ci chiede due strombazzate a testa, quindi quattro, così, per le bambine Alice e Sara, per tutto l'anno, ci stanno facendo la prima media. Piccoline, dovete diventare come Janis Joplin. Sono anch'io russo, ma perché dormo in piedi? Sto andando a prendere la merendina per i figli, ma ho su un giubbotto nero e occhiali neri e sono terribilmente rock. Secondo me i papà all'ascolto hanno un po' il codino di paglia, hai capito? i papà che accompagnano i figli a quest'ora hanno il codino in paglia, non sono più rock, guarda. Ma invece sì, ragazzi, dai. Per il live show della Rock FM All Star Band di sabato vi servono donnine che intervengono come nei concerti dei Motorhead? Ah, guarda, non ce n'è mai abbastanza. Ho fondato il gruppo d'ascolto Giardinieri, per ora siamo in due, ma cerchiamo compagni in zona Massa Pisa. Ci dai una mano? Io ho letto l'annuncio, ragazzi. Quindi Giardinieri, zona Massa Pisa, sappiate che si sta formando il gruppo d'ascolto lì, andate a rintracciarlo. 7:47 minuti primi, pane, burro e rock and roll, prosegue con Mr. Slow Hand Clapton, Bad Love. È un amore cattivo. Chiedo scusa all'amico che dice che assomiglio a un altro speaker quando parlo così, hai ragione. Perdonami, ma mi è venuto spontaneo. Tenterò di cambiare intonazione. Però, insomma, quando si parla di missione, missione per tutti. I'm Già tante volte sulle frequenze di Rock FM, all'interno di Pane, Burro e Rock and Roll, abbiamo approfondito l'importanza dell'idioma. E capitemi bene, dico idioma, non idiota. Ma naturalmente. Buongiorno, Frick. Buongiorno, lei avrà notato che idiota sono prontamente intervenuto, ma questo è un riflesso condizionato. La vedo felice, più del solito, sì. Quando vedo quella luce negli occhi è perché lei ha avuto una buona idea. Ma sì, mi sembra, mi pare proprio, ho la sensazione di sì. Ovvero? Sì. Beh, vorrei considerare, sì, insieme al pubblico, poiché rock è cultura, certo, che se ne dica, certo, le parole strane, il linguaggio particolare, come lei citava poc'anzi, le parole inusuali, le parole ribelli. Una sorta di etimologia della parola ribelle, che essendo ribelle è una parola rock. Naturalmente, massimamente rock, è principalmente rock. Mi interessa molto questa cosa, con cosa vorrebbe partire, cosa vorrebbe proporre? Guardi, io vorrei usare una frase che spesso utilizziamo, che lei di Jerry le utilizza, sì, e cioè forse non tutti sanno che, certo, la parola teppista, sì, ripeto, insisto, teppista, deriva da teppa, ovvero dal milanese, dall'idioma milanese, sì, ho detto idioma milanese, certo, non idiota milanese. Teppa è zolla d'erba, in particolare zolla di muschio, di muffa. E il teppista, per estensione, diventa il frequentatore di luoghi oscuri, privati e nascosti, dove cresce la muffa e il muschio. È dunque una persona che incontra altri suoi simili in posti riparati dalla luce del sole. Teppista, a me viene in mente, mi chiamavano teppa più che teppista. Certo, la teppa, sì, infatti, è alla lettera, sempre dall'idioma milanese, sì, muschio, ed è tratto anche dalla frase Compagnia, sì, della Teppa, che era il nome di un gruppo di malviventi attivo fra il 1816 e il 1821, quindi primi dell'Ottocento del XIX secolo. Gruppo di malviventi, la Compagnia della Teppa, sì, che si riuniva anche sui prati coperti di muschio di Piazza Castello a Milano. Quindi vuol farmi credere che teppista arriva da teppa e arriva da questi compagnia di malviventi, questo gruppo di malviventi che si trovava a Milano. Esattamente, è una parola di origine milanese che è stata adottata in tutto lo Stivale, sì, in tutto il bel paese, e in qualche modo ad indicare questa zolla d'erba, zolla di muschio, che si trovava nei luoghi frequentati da malviventi. Questa cosa è incredibile, avrei voluto saperlo e adesso lo so. Grazie. Se ne fosse andato da Milano ieri, non l'avrebbe saputo. I look at you all. check.